la luz que será tu nueva familia, un infierno será una mera alegría. La luz que será tu nueva familia, un infierno será una mera alegría. Una giacca e cravatta, penso quello che dirò. Preparato il carattere più estroverso che ho. In prestito ottimismo, ma non so se lo userò. Mi passo la sicurezza che fingo di avere. Mi scatta l'esperienza, un colpione a cui mi devo tenere. È arrivato il mio turno, sono molto agitato. Rispondo alle domande, ma detto, sono fregato. Si vede che sono insicuro e pessimista. Penseranno che sono comunista. La luce sarà la nuova famiglia, ogni giorno sarà una meraviglia. La luce sarà la nuova famiglia, ogni giorno sarà una meraviglia. La luce sarà la nuova famiglia, ogni giorno sarà una meraviglia. La luce sarà la nuova famiglia, ogni giorno sarà una meraviglia. Tra poco verrò studiato, il mio passato sarà svelato come una terapia dello psicologo. Colloquio per vedere se mio omologo, che c'è sempre chi ti ruba il pane, che sempre siamo sotto esame. Non vedo l'ora di andarmene e chiedo cosa pensi di me.